Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Roberto Scaltritti in regia. E un sacco di temi a spicchi da affrontare oggi pomeriggio con Coach Dan Peterson. Ciao Coach. Ciao Carlo, ho la voce veramente come dice Meneghin da Barry White adesso, perché sono semi ammalato, febbrato, un po' di tutto qui. Se hai bisogno di un'aspirina te la porto. No, però sono medici, se mi fanno l'antidoping adesso ti danno l'ergastolo. Esatto, minimo. E qui con me un ospite che presento subito con in modo originale, come sa fare Franco Piantanida. Claudia, vieni, c'è una visita per te. Ciao. Ma tu non sei quello... Sono Luca. Sì. Luca. Luca Chiabotti della Gazzetta dello Sport. Ciao a tutti. Ciao. Buongiorno coach. Ciao Luca, un abbraccio. Senti, il massimo delle suggestioni oggi non arriva nemmeno dalla due giorni di Eurolega, che pure è stata molto interessante, con due vittorie e un tonfo quello di Siena, ma da qualcosa che accadrà stanotte in America. Fatemi divertire anche con gli effetti sonori, vi prego. 800-24-0024, numero verde. La NCAA questa notte all'una ora italiana, diretta TV su Sky, così diciamo tutto, apre su una portaerei, ma non una portaerei qualunque, la USS Carl Vinson, che è la portaerei su cui è stato trasportato ad esempio il corpo di Osama Bin Laden, poi seppellito nell'Oceano Indiano. Ebbene, lì è stato allestito all'aperto il campo da basket su cui si aprirà la NCAA, con una partita anche in questo caso tutt'altro che banale, piena di ricordi e di storia. Michigan State contro North Carolina. Tra l'altro in North Carolina gioca il nipote di uno che Coach Dan Peterson conosce benissimo, come Bob McAdoo, James Michael McAdoo, 18 anni, 2,06 m. Ci sarà il presidente Obama, ci saranno Magic Johnson, ex Michigan State, e James Worthy, ex North Carolina. Beh, a me vengono i brividi, non so a voi ragazzi, coach. Guarda, io avevo saputo di questo evento un po' prima da mio amico Don Casey, quello che è allenato a Pesaro per 7 partite sì. nell'84-85, ex capo allenatore NBA, che era coinvolto con un progetto incredibile. Comunque le forze armate americane per lo sport si fanno in quattro, non ho sempre fatto, infatti molto del basket in Italia, come sanno tutti, è venuto proprio dalla quinta armata americana a Trieste, a Milano. Anzi, hanno fatto Sandro Gamba cominciare il basket qui a Milano, quindi veramente la storia è lunga, ma questa è veramente ciliegino sulla torta, sul portaereo, con il presidente come personaggio, come James Worthy, Magic Johnson, cioè proprio due grandi nomi, scuole che hanno vinto il titolo NCAA nel passato più di una volta, davvero eccezionale, veramente una cornice stupenda per il basket americano. Luca, stanotte a luna siamo lì tutti a vedere, perché insomma, merita qualche ora di sonno buttata. Ma certamente, anche perché è una pallacanestro che comunque affascina, perché è giocata da ragazzi molto giovani ed è molto bello vederli giocare, perché sono anche forti, e soprattutto ci ricorda che è vero che la NBA sta facendo un lockout, ma che appunto stasera, dopo un paio di partite di un torneo prestagionale, comunque parte la stagione, ci sono 132 partite di college che inonderanno gli Stati Uniti, e il sospetto che del lockout dell'NBA non freghi poi così tantissimo nasce. Sì, anche se nella notte, poi ci colleghiamo anche con New York, nella notte pare ci sia stata la proposta che non si può rifiutare, ma poi ci spiega tutto Simone Sandri, e addirittura qualcuno dice prima di Natale l'NBA potrebbe partire, ma servono ancora un sacco di condizionali in questa storia. Coach, invece l'Eurolega è partita già da un pezzo, e ieri abbiamo visto Milano vincere, poi Luca Chiabotti, che era Charleroi, ci racconta bene, vincere solo grazie al suo talento e alle sue stelle. Cantù ha due velocità in campionato e in Eurolega, sembra un po' il Napoli del calcio. e Siena. Siena che ha perso male, molto male a Barcellona, subito sotto 19-4, da lì praticamente non si è più rialzata con alcune convinzioni, ad esempio l'inadeguatezza del roster, l'inadeguatezza fisica nel giocare queste partite. E poi forse l'impressione che Siena stia, almeno la mia, che Siena stia facendo i conti con un ciclo che si sta esaurendo nei suoi giocatori chiave, da Lavrinovic a Stonruk a Kaukenas. Magari mi sbaglio io, coach, che ne pensi? Guarda, innanzitutto abbiamo già visto che il grande presidente di Siena, Ferdinando Minucci, non sta perdendo tempo. C'è, non so, seconda partita del campionato, Summers, quella che ha perso in casa contro Caserta, Summers ha fatto passi, una azione, cioè, dico per una frazione di passi, penso, però chiave questa infrazione via Summers, dentro la coach, cioè lui non vuole perdere tempo, lui, non dimentichiamo, ha detto ciclo dei 3 anni, poi hanno vinto, ok, aggiungiamo un altro anno, hanno vinto, ok, un altro anno, ma lui sapeva, Minucci, che il ciclo era finito 2 anni fa, e lui sta, non vuole intaccare, diciamo, il nucleo storico della squadra, ma sta cercando pian piano di mettere attorno a questo gruppo qualche ricambio. Luca, che ne pensi? Siena è a fine ciclo, sta, ma anche questa fretta di comunque di correggere la squadra da subito. Ma è questo un indicatore? È un indicatore sicuramente, perché di solito c'era a Siena hanno giocato giocatori che non hanno convinto per tanto tempo, e sono stati aspettati e poi hanno dato quello che dovevano dare. Questo probabilmente c'è qualcosa sotto di gravissimo, ovviamente non li ha convinti anche la persona oltre al giocatore, perché sennò non sarebbero arrivati a questo punto. E il ciclo è stato accorciato a causa delle vittorie. Ricordiamoci però che hanno McCaleb e Andersen con contratti molto lunghi, quindi dire che sì, forse questo gruppo con giocatori in scadenza, chiave, storici, può in qualche modo finire, o meglio, deve ottimizzare quest'anno il massimo che può. Però Siena continua, perché ha già messo le basi col miglior giocatore d'Europa in questo momento, che è McCaleb, e con certo, uno come Andersen. Per cui sì, è vero, cioè, anche lì ci sono due velocità. Bisogna prendere il massimo subito, nello stesso tempo sapendo che però appunto c'è, sia già qualcosa per il futuro. Coach, prima di salutarti e di rimandarti sotto le coperte, sull'altro fronte c'è quello straniero. È vero che Siena perde in maniera così netta, ma il Barcellona lancia il primo squillo, il primo messaggio ai naviganti dell'Eurolega. La stessa cosa fa il CSKA Mosca, che forse è la squadra da battere e che vince sul campo dei Panathinaikos dopo un supplementare. Sono i primi due grandi squilli dell'Eurolega. Ma veramente hai toccato, queste sono oggi come oggi le due squadre più forti. Ripeto quello che hai detto dall'inizio, che ovviamente in televisione, non in persona, la squadra più forte che io vedo con i miei occhi quest'anno è CSKA Mosca. Ho appena riguardato la partita qui sul nostro Sport Italia con il commento di Nicolo Trigri, e veramente rimontare 9 punti, ma erano 3 minuti dalla fine a Panathinaikos, pareggiare dalla supplementare, e Sisauskas che ha spagliato tutto, fa canestro vincente, risorse che hanno lì contro Panathinaikos, pure condizionato, falli Diamantidis eccetera, sempre Obradovic, sempre Oaka, cioè vincere quella partita lì a supplementare indica qualcosa. Poi la prova di forza di Barcellona ieri è stata veramente impressionante, però è stato un grande, io penso che Siena avrà beneficio di questo, perché è un segnale che come sono messi adesso non vogliono affrontare il resto, loro vanno sul mercato adesso, a mio avviso. Certo. Coach, io ti saluto, guarda che c'è qualche ascoltatrice che ci manda sms dicendo che ha una voce molto sexy. Me lo dicono tutti, mi avessero detto questo 30 anni fa, ragazzi, sarebbe stato meglio. Okay, poi quindi ti giro i contatti. Vabbè, amici sportivi, ciao Luca, un abbraccio ancora. Ciao coach. Allora, adesso traffico e poi continuiamo a parlare di basket con Luca Chiabotti e con voi, 800 24 00 24, numero verde, per rispondere a Stefano Pellegrini al volo. Su che canale la partita NCAA stanotte? La partita è su Sky. Palla spicchi. Sempre con me Luca Chiabotti, Massimo da Venezia, già in linea, 800 24 00 24. Io stavo dando un'occhiata ad alcuni dei tanti messaggi sulla pagina Facebook di Palla a Spicchi e vi leggo anche. Andrea Mulazzani: il Barcellona mi ha sembrato sinceramente di un altro livello, anche se questa Siena non è neanche lontana parente di quella arrivata alle Final Four dell'anno scorso. Poi altro un nickname in questo caso, Siena, il Sassolino. Siena ha troppe ali grandi ma manca del mazzulatore. Alla lunga i risultati arriveranno, molta fiducia in Pianigiani. Paolo Speroni, Siena ha picchiato una musata contro una difesa asfissiante. E poi su Milano, Milano proprio non bella ma concreta, e nei momenti importanti ha tirato fuori un paio di giocate di quelle che dici, ok, tutti a casa, stasera deve andare così. È così, Luca Chiabotti, tu che eri a Charleroi ieri sera? È così quando si vince. Sì. È così quando si vince, quindi si dice che le grandi squadre si vedono quando giocano maluccio e vincono ugualmente, proprio con queste giocate che dicevamo, di soprattutto di Fozzi e di Nicolas nel finale. Se non fosse entrato quel tiro magari si dicevano altre cose. Diciamo che la squadra secondo me c'è, che sta lavorando, ma che ha ancora delle problematiche irrisolte, perché è nuova e perché ha dei giocatori particolari, perché come non so, Cook, abbiamo detto tutti, ma che bravo, finalmente un playmaker, che è verissimo, un leader, è verissimo. Poi fa uno suotto al tiro, e nel basket di oggi un playmaker che non attacca, vedi Mallet invece del Charleroi, gliene ha fatte di tutti i colori. Quindi anche lì Milano deve ancora trovare il bilanciamento tra le anime di squadra di Gallinari, di Cook, e il fatto che anche loro però devono essere molto più aggressivi, però non perdere il gioco di squadra, perché poi ci sono Fozzis e gli altri che fanno canestro. Insomma, è un lavoro difficile. Chiaro che avendo vinto una partita chiave per l'Eurolega, perché il paradosso è che quasi più importante per la classifica, più importante la partita di Charleroi che quella di domani. Ma sicuro. Mentre, vabbè, poi non parliamo invece di un forum pieno che invece renderà importantissima la partita. La partita di domenica. Ecco, però insomma diciamo che la squadra deve ancora lavorare tanto, ha tante qualità, però non riesce ancora a esprimerle. È normale che sia così, per cui nessun problema, sono venuti 2 punti in trasferta, benissimo. Però insomma bisogna stare attenti. Poi parliamo anche della partita di domenica, che è una partita, lasciatemi dire, politicamente, tra molte virgolette, molto importante, anche se sono due squadre in costruzione con le loro difficoltà, Siena e Milano, però è una partita chiaramente sovradimensionata per il momento dell'anno, siamo solo a novembre, il campionato è appena iniziato, però è una partita che già vuol dire moltissimo, secondo me, per molti aspetti. Dopo ne parliamo con Luca Chiabotti. Intanto Massimo da Venezia. Sì, buongiorno a entrambi. Buongiorno. Niente, era solo per parlare, diciamo, di Venezia. Che siamo felicemente sorpresi di quello che abbiamo visto fino adesso, perché ovviamente non ci aspettavamo di avere già così tanti punti dopo 4 giornate, potevano essere 6, perché con Cantù, se non si mette a segnare dallo spogliatoio, magari si vince anche quella. Questa era una zona depressa da troppi anni nel basket, perché Maestro e Venezia erano anni che mancavano dalla Serie A1. E quindi insomma è molto bello, peccato abbiamo questo problema col palazzetto, perché poi anni fa decisero di farne 2 piccoli, una a Venezia e una a Mestre, invece di farne uno grande, ma qui a Venezia succedono spesso cose sbagliate di questo genere. Dicevo, siamo felici, Andrea Mazzone è un bravissimo allenatore, oltre ad essere nato anche lui qui a Mestre, insomma, per quello che può contare, sì, anche questo. Conta. Se arriva un altro centro e sembra che ci stiano lavorando, Venezia va nei playoff, insomma, a questo punto. Calme gesso, direbbero dalle parti di Pisa e Livorno. Dietro ci siamo. Lei ha citato Venezia e Mestre, io cito Pisa e Livorno, dove un palazzetto in coabitazione non lo vedremo mai nella vita. Però insomma, Siena è veramente ha avuto un approccio miracoloso con questo campionato. Venezia. No, miracoloso. Io sono d'accordo con l'ascoltatore. Beh, se tu la leggi, ripescati per i capelli. Sì, certo. Arrivano, dobbiamo fare squadra. Era una squadra eccellente, perché era riuscita a confermare tutti e anzi a migliorare rispetto all'anno scorso in Lega 2, e sono stati molto bravi, secondo me, nel poco tempo che hanno avuto a disposizione, a prendere 2 giocatori molto interessanti. Adesso deve solo dare l'ultima ritoccatina. No, credo anch'io che è una squadra esperta, è una squadra nuova, ma è una squadra esperta, è stata ripescata, ma è molto più diciamo solida in certe cose di molte altre avversarie, E secondo me ha un allenatore perfetto per questa, per questo tipo di per gestire questo tipo di squadre, per cui perché no, playoff perché no, anche se ovviamente poi magari anche la questione del campo e altre cose potrebbero disturbare un po' il tragitto e sarebbe meglio di no. Ci sta, caro Luca, ci sta ascoltando Marco Crespi da Casale Monferrato. Il grande Marco, ciao. Ciao Marco. Buongiorno a tutti. Stavamo parlando di un tuo competitor come Venezia, caro Marco. Venezia, una bella squadra, una squadra che abbiamo battuto, una squadra che ha più punti in classifica di noi. Senti, domenica, ti abbiamo chiamato perché domenica sei andato ad un passo dalla prima vera impresa impossibile del campionato italiano. Cioè, con una squadra ridotta ai minimi termini come la tua, per infortuni, per tante vicissitudini, vi mancava la stella della squadra, eppure siete andati a tanto così dal battere l'Armani. Abbiamo fatto sicuramente una ottima prestazione e la prima qualità della prestazione è stata andare in campo senza, con la testa completamente pulita, senza pensare all'assenza, senza pensare alla forza dell'avversario. E questo credo che sia un qualche cosa che in settimana, comunque, nonostante le vicissitudini, nonostante le zero vittorie, stiamo costruendo sempre nel nostro modo, e credo che in più domenica c'è stata il tutto esaurito, sì, nei 3500 di Casale, quindi ancora più persone presenti della famosa gara 5, e questo credo che sia un risultato che non fa punti in classifica, però aiuta a costruire per farli. No, ma un altro risultato che non fa punti in classifica, che è fondamentale, è che dalla prima partita interna Casale Monferrato ha giocato nel suo palazzetto, che è stato ultimato in tempi giusti. Questa la trovo la notizia principale, perché poi i giocatori vanno e vengono, le squadre si aggiustano, come sta facendo Casale. Luca Chiabotti, caro Marco Crespi, voleva da te delle notizie, quindi te lo passo. E siamo in attesa di sapere come hai girato la squadra, visto che, insomma, di giocatori che hai preso è pieno un po' il campionato, magari da altre parti, magari perché hanno avuto più successo. Sì, diciamo, una costante che tanti giocatori hanno avuto grande successo qua, anche oltre ogni aspettativa, quindi erano pronti per fare un salto di qualità in tutti i sensi. Ma pensando all'oggi, credo che la nostra squadra ha bisogno di aggiungere qualità. Ovviamente ci sono incastri di eleggibilità di giocatori ancora per questa stagione, e l'idea è stata quella di cercare di mettere più qualità possibile nei giocatori esterni. Quindi se le notizie che anche noi stiamo aspettando è l'ufficialità per renderle ufficiale, aggiungeremo un giocatore americano sul perimetro. Abbiamo aggiunto Oliver Stevic nella rotazione dei lunghi, un giocatore che dà solidità, dà capacità di stare in campo, che è un'altra delle cose che volevamo aggiungere alla nostra squadra. E poi il tutto sarà completato ancora con un altro giocatore lungo che, per discorsi di agilità, deve essere italiano. Però il nome non ce li ha detti. Però il nome non ce li ha detti, no. No, perché Stevic sì, ve l'ho detto. Stevic no, è ufficiale, qui lo sapevamo. Sì, no, e gli altri nomi purtroppo sono situazioni in divenire, non c'è ancora nessuna ufficialità, sono giocatori, anche il giocatore americano è un giocatore che sta già giocando in Europa, quindi sono situazioni delicate che assolutamente non devono essere, ma non per sì, tenere la cosa riservata in un modo alla Moggi, ecco, ma proprio perché sicuramente non sarebbe funzionale alla trattativa. Pensa che io ho anche un messaggio di Ciro da Napoli che aveva scritto: smettetela con Moggi. Per oggi l'abbiamo smessa, domani ne parliamo invece. Senti Marco, che campionato stai vedendo? Ma un campionato sicuramente dove nessuna squadra dopo 5 giornate è imbattuta, e questo credo che sia un qualche una cosa, bella notizia, secondo me. Una notizia, perché è una notizia che poi non è solo dei punti in classifica, anche dell'equilibrio tecnico. Io credo che alla fine, nonostante Siena sia la squadra che in questo momento ha anche qualche difficoltà fisica, penso sia sempre la squadra da battere, perché credo che la solidità, l'abitudine a vincere che si costruisce negli anni è un qualcosa, una qualità molto importante, e quindi è ancora assolutamente per me la prima favorita. Chi vuole lottare per lo scudetto deve sorpassare e battere Siena in questo fattispecie del gioco, cioè l'abitudine mentale a fare la cosa giusta al momento giusto. Tu invece devi provare a battere Sasha Djordjevic. Sì, sicuramente Sasha è un amico, lo ricordo con grande affetto, dopo una partita persa al suo primo anno fuori dal Partizan Belgrado, mi telefona sabato sera con Milano, mi telefona domenica mattina e dice: no, io oggi non posso pensare al basket, andiamo allo stadio, andiamo a vedere una partita a San Siro, che non mi ricordo neanche se giocava l'Inter o il Milan, e tantomeno l'avversario, però proprio perché voleva distrarsi, quindi questo penso spiega il rapporto. Ma soprattutto giochiamo non contro Sasha Giorgio, ma contro la Benetton, sì. E soprattutto giochiamo per noi stessi, credo che sia la cosa principale. Dobbiamo avere la stessa leggerezza mentale e aggressività tecnica che abbiamo avuto nella partita domenica. Sicuramente abbiamo in più Stevic, abbiamo in più Ferrero e molto probabilmente abbiamo ancora in più tempo, quindi domenica posso sbagliare i cambi perché ho la possibilità di farli. Marco, in bocca al lupo, grazie come sempre. Ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao Marco Crespi, non ci ha detto i nomi però, Luca. No, non ce li ha detti, però da un po' di pretattica. Un po' di pretattica ci sta. Un po' di pretattica ci sta, sì. Palla spicchi. Dunque torniamo con Luca Chiabotti qui con me e con Carlo da Potenza invece in linea. 800 24 00 24. Oltre allo smettetela con Moggi di Ciro da Napoli, che evidentemente ha sbagliato indirizzo, il nostro numero è 349 238 6666 per gli sms. C'è chi, come Francesco, vorrebbe Dan Peterson clonato come la pecora Dolly. C'è chi, come Luca, domanda se ha più il merito di Cantù o il demerito dell'Olympiakos, che si è appoggiata sul solo Spanulis. Certo è che Cantù sta facendo un'Eurolega con i baffi, in campionato va molto più piano, però dicevo prima, mi ricorda un po' il Napoli di Mazzarri, insomma, con persa nel fascino di un'Europa che non assaggiava da moltissimo tempo. Carlo, buonasera. Buongiorno. Buonasera, buongiorno a voi tutti. Sì. Appunto, per quanto riguarda l'Eurolega, guardando ieri sera Siena, sono già diversi anni che ho questa idea, poi magari voi confermerete o meno questo mio pensiero. I 5 campionati consecutivi di Siena vinti in Italia, secondo me dimostrano che, fermo restando la forza di Siena, dimostrano che per 5 anni negli campionati scorsi sono stati molto ma molto scadenti come gli altri, livello, gli altri hanno dormito, sì, perché secondo me solo l'ultimo scudetto Siena si aveva un po' sudato, sì. E la dimostrazione evidente è che poi quando si mette il nasino fuori dall'Italia, il Barcellona secondo me ieri sera ha fatto vedere molto più dei 17 punti di scarto, sì. Che differenza c'è fra la nostra amarissima realtà, ne parlo. Beh, però con, Carlo, con Siena, tanto dolore Siena ne parlo. Che Siena, no, ma questo è in parte vero, però Siena che comunque ha stato dominato nel campionato italiano nelle ultime stagioni, ha fatto anche molto bene in Eurolega non più tardi di arrivando alle Final Four non più tardi di 5 mesi fa, no Luca? Sì, certo, però quello che dice è vero, è il demerito, senza togliere nulla a Siena, il demerito delle altre squadre è stato notevole in questi anni. Dire appunto che però il bello di Siena invece è che è sempre riuscita anche in Europa a esportare una realtà virtuale della pallacanestro italiana che non esiste, che era solo lei. Certo, abbiamo detto tante volte, non rappresentava la pallacanestro, esatto, italiana. Adesso, anche perché le mancano dei giocatori così, effettivamente il Barcellona ha un'altra marcia. Vediamolo se si sistemano, vediamolo per dare giudizi definitivi già al ritorno o addirittura più avanti nel Top 16, quando di solito Siena riesce a dare il meglio. Sì, certo che la proiezione della partita di domenica, dicevamo prima, è piena di suggestioni, dicevo sovradimensionata anche come attese rispetto a questo periodo. Dicevi tu prima che non c'è più un biglietto per vedere questa partita al Forum, che sarà tutto esaurito, anche questo è qualcosa di... No, è bellissimo. Di epocale, forse, no? In stagione regolare, dopo pochissime giornate, una partita che richiama il tutto esaurito, penso non succedesse da un sacco di anni. Certo, sai, è sovradimensionata, però bisogna ricordare che l'anno scorso questa partita arrivò nella stessa situazione, cioè due squadre prime in classifica ugualmente come quest'anno, con una sconfitta a tutte e due. Sì. E c'era una giornata in più in meno, ma non è questo il punto. Poi Milano, pur con delle assenze, andò a Siena, ne prese 30 e qualche cosa. Sì. E in quel momento Milano, inteso il presidente Prodi, così decisero di cambiare l'allenatore. Poi la cosa si protrasse poi per ancora più di un mese, ma quella che sembrava una partita di inizio campionato in realtà fu quella che decise poi la stagione dell'Armani, per cui due cose: il pubblico non va deluso, purtroppo c'è una statistica che spesso quando tanta gente è arrivata spesso Milano ha perso, quindi di non farsi prendere da l'ansia particolare, ma non si può deludere. Non deludere significa lottare e far vedere che si è competitivi. E quindi da un'altra parte, anche dopo 5-6 giornate, Siena insegna, avendo già mandato via un giocatore e volendo girare la squadra adesso, queste partite ti dicono: ragazzi, siamo pronti o non siamo pronti. Sì, la vera differenza rispetto all'anno scorso, che l'anno scorso si aspettava questa partita, ma si sapeva già come andava a finire la stagione. Io non ho mai visto nel campionato italiano una squadra vicina a Siena nelle potenzialità come questa Milano. Ah beh, sicuramente, anzi... Se uno guarda ruolo per ruolo in questo momento col foglietto e la matitina, come Milano più forte. Uno viene da dire Milano è più forte, e tanto per fare un po' di polemiche, perché ha preso da Siena forse l'unico giocatore che Siena non doveva dar via, Erston. Però evidentemente hanno fatto i loro calcoli, hanno detto questioni di budget, no? Com'è? E in questo momento è ovvio che Milano è super competitiva con Siena, ma avendo perso credo 400 partite di fila, non vince dal 2000, non vince dal 2005 con Siena. Sì. Milano, fino a quando non ne vince almeno una di un punto, c'è ovvio che di inferiorità. Sì, ma poi soprattutto è ovvio che Siena sia favorita. Fin quando Milano riuscirà a vincere una partita con Siena, allora si potranno rivedere un po' i pronostici, ma vediamo. Jacopo da Firenze, buonasera. Buonasera, avete parzialmente anticipato la considerazione che volevo fare, perché chiamo da Firenze, ma sono originario di Siena, quindi seguo abbastanza il basket, e credo che la chiave fondamentale quest'anno per Siena sia purtroppo la partenza di Airston, perché è un giocatore che bene o male stava colmando l'assenza di Sato, venduto a suo tempo, ed è un giocatore molto forte anche spalle a canestro, in grado di mettere in difficoltà i tre e anche i quattro che qualche volta l'hanno marcato. E il fatto che lui sia passato a Siena più di Gallinari, perché poi vabbè, Danilo è immenso, ma prima o poi tornerà in NBA, secondo me quest'anno a Siena con Kaukenas e Rakosevic, che sono molto simili fra di loro, dove addirittura Rakosevic secondo me da un punto di vista difensivo è anche meno forte. Sicuro. Quindi Siena ha perso molto sotto questo aspetto, e comunque la partita di domenica è importante solo per Milano. Siena può perdere di 10, può perdere anche di 20, però secondo me la mentalità di l'anno scorso, Jacopo, secondo me sì, è più importante per Milano che per Siena, per le ragioni che ha detto prima Luca Chiabotti, però anche per Siena non è una partita che va sottovalutata, perché è proprio sui segnali che negli ultimi anni è riuscito a mandare ai potenziali competitor che ha costruito anche le sue fortune. Cioè, quando ci troviamo e ci guardiamo negli occhi, io sono più forte e te lo dimostro. E domenica avrà una di queste partite chiave, che per la classifica non contano nulla, per il feeling del campionato invece contano, no? Questo è il pensiero mio, almeno. Airston, giocatore per cui io stravedo, secondo me, ma lo dicevi tu ora, è stato forse il primo errore di Siena negli ultimi 5 anni. Sì, anche se ovviamente avendo preso Andersen si trovavano, essendo una società seria, a dover far riquadrare il bilancio da qualche altra parte. Ovviamente, se adesso però si deve già ricambiare la squadra, probabilmente quel risparmio che ha ottenuto l'ha perso, e quindi forse probabilmente non erano convinti del tutto del giocatore, e per l'amor di Dio. Ci sta. Di Cantù cosa mi dici invece? Cantù a due velocità, Cantù che fa un po' il verso del Napoli, che si perde nella grandezza, nella bellezza dell'Europa e magari lascia per strada qualcosa in campionato. Allora, io credo che Cantù stia facendo delle cose bellissime, e che però in questo momento non vada sottovalutato il fatto che ha giocato 3 delle 4 partite di Eurolega in casa. Quindi che abbia comunque messo, si sia sistemata, abbia avuto un supporto fantastico dal pubblico, anche giocando non nel suo campo, e avendo vissuto delle sensazioni che sono bellissime, però ti consumano un pochino, poi quando pochi giorni dopo devi andare. Il vero problema, secondo me, sarà quando invece dovrai viaggiare di più, non solo per le difficoltà delle partite in trasferta, ma proprio anche per questo ritmo che viene a mancare. E quindi insomma, l'Eurolega di Cantù, anche se messa benissimo, secondo me le partite più divertenti quest'anno sono state tutte quelle di Cantù. Sì. Io sono stato a Vitoria, è stata una partita bellissima, anche se poi il Trinchiere alla fine era arrabbiato, è stata una partita veramente bellissima. Però sarà ancora molto lunga, molto difficile, e io credo che questa doppia velocità dovrà sistemarla in fretta, perché prima di tutto perché magari andrà nel top 16 e quindi il problema si protrarrà fino a febbraio, e secondo perché la parte difficile deve arrivare. Palla spicchi. Paolo da Treviso, come annunciato. Buongiorno Paolo, dica. Buongiorno. Allora, innanzitutto una domanda. Prego. La decisamente incoraggiante vittoria di Treviso, io sono di Treviso, contro Cantù, in che luce deve essere messa? Cioè, la Benetton è una squadra che può ambire ai quartieri alti, oppure Cantù in questo momento è una cartina al tornasole non affidabilissima? E ne stavamo parlando proprio ora di Cantù, che si sta crogionando una bellezza nel fascino dell'Eurolega e che sta perdendo qualche colpo in campionato. Treviso ha giocato molto bene, ha giocato una grande partita contro Cantù domenica. Sul valore assoluto di Treviso, sulle prospettive di Treviso, giro la domanda a Luca Chiabotti. Secondo me è una buona squadra. E quartieri alti mi sembra eccessivo, direi playoff sì, però anche se in squadra da playoff è la stessa cosa, quindi con alcuni punti interrogativi, perché ha un paio di giocatori che, pur non entrando nel questione lockout non lockout, comunque hanno un'uscita, anche Adrien e l'altro hanno un'uscita comunque per l'NBA, quindi bisogna vedere se nel giro delle prossime settimane succede qualcosa e loro hanno un contratto in America, se non cambiare la squadra, ecco, ci sono alcuni punti interrogativi, però secondo me è una squadra che può soprattutto divertire tanto e far appassionare la gente, perché poi ha un allenatore come Djordjevic che dà molta carica, fa giocare le sue squadre con diciamo aggressività, e quindi queste cose piacciono. Io ovviamente faccio il tifo sfegatato per i De Nicolà, i Sandri, perché mi piacerebbe, secondo me sono ragazzi di valore, mi piacerebbe vederli protagonisti anche in Serie A. Adesso andiamo a New York, però per capire invece cosa succede di là, perché le agenzie dicono nella notte c'è stato, in quest'ultimo incontro c'è stata la proposta che non si può rifiutare. Ma Simone Sandri da New York, ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo, buon pomeriggio anche a Luca. Esiste ciao, la Simone. Proposta indecente? Sì, è una proposta. Sì, stanno uscendo dei dettagli questa mattina sull'ultima proposta di Stern, che comunque non era così tanto diversa da quella che aveva fatto la settimana scorsa. Rispedita al mittente. Sì, siamo arrivati a un punto in cui praticamente la divisione dei proventi NBA sarà al 50% e Stern avrebbe fatto delle piccolissime concessioni per quanto riguarda la salary cap ai giocatori. Sarà sufficiente per diciamo forzare il sindacato lunedì nel meeting tra giocatori a votare sì, oppure per l'ennesima volta i giocatori diranno no. Da quello che sembra trasparire questa mattina, i giocatori sono abbastanza convinti che il voto sarà negativo, cioè che il lunedì dopo il meeting del sindacato ci sarà una sorta di parere negativo nei confronti di questa proposta. Se così davvero dovesse essere, penso che saranno guai, perché in questo caso Stern è stato abbastanza chiaro, e questo è veramente il suo ultimo, la sua ultima proposta. Poi si ritornerà alle proposte, ovviamente, che sono assolutamente inaccettabili da parte del sindacato, quelle con la divisione 53-47, con la cosiddetta hard cap. Per cui è sicuramente un weekend importante, e lunedì è la giornata decisiva di questo lockout. Ti sento particolarmente pessimista dal tono, Devo essere sincero, sono stato ottimista per un certo periodo e ho avuto diverse delusioni anche durante le lunghe attese che ho fatto in questi diversi hotel. C'è sempre stato un'area di ottimismo a un certo punto delle trattative, invece per un motivo o per un altro alla fine non si è praticamente arrivati da nessuna parte. Devo dire che mi sembrava ieri sera, soprattutto ieri notte, a luna di notte, quando Stern ha spiegato un po' per grandi linee, non tanto la proposta, ma tanto per esempio il fatto che stavano già lavorando su un calendario nuovo, che la stagione sarebbe iniziato il 15 dicembre, cioè il numero di partite. Sono dettagli secondo me abbastanza importanti per far capire che siamo a un punto abbastanza importante. Però alla fine non vedo come i giocatori possano rifiutare una settimana prima una proposta praticamente molto ma molto simile a questa e poi riaccettarla una settimana dopo. Mi sembra che non so se può bastare la paura di perdere un altro stipendio dopo aver perso quello di novembre. Io sono convinto che alla fine purtroppo il sindacato dirà di no. Luca? Io posso parlare invece per le serate, notte in redazione, aspettare che Simone o Massimo Loff ci dessero delle notizie da là, per cui chiaramente un po' filtrata. Io credo che per come era stata posta il famoso ultimatum dell'altro giorno di Stern, i giocatori non l'avrebbero accettato, proprio perché non possono accettare di farsi dare degli ultimatum. Credevo e speravo che una volta riportati tutti al tavolo delle trattative, cioè in un modo più civile e paritario, diciamo, di discutere la situazione, poi fossero soltanto dei piccoli dettagli da mettere a posto. Evidentemente non è così. Come dice Simone, ogni volta c'era questa strana differenza tra quello che si dicevano e le sensazioni positive, magari quelle che si dicevano molto più negative. Ha sempre vinto l'aspetto negativo. Io spero che trovino un accordo, perché il futuro, se no, è veramente difficile da decifrare. Credo che i giocatori abbiano fatto dei grandissimi passi verso la Lega, perché hanno perso il 7%, più o meno hanno dato una decisa sforbiciata alle loro pretese. E il problema è che, da quel che si sente, da quel che mi dicono appunto quelli come Simone, da quel che si legge, probabilmente Stern non ha più quel controllo sui proprietari che aveva una volta, e quindi anche lui ha un po' le mani negate. Probabilmente fosse stato per lui, avrebbero già trovato un accordo soddisfacente per le due parti. Simone, per chiudere la partita sulla porta aerea, il discorso con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi, che mi affascina da morire, in America come è sentito alla vigilia del Veteran Day questo appuntamento di apertura così insolito e così suggestivo della stagione? Sì, è sicuramente un appuntamento affascinante, anche per quello. Il problema è legato un po' al tempo, se ci sono previsioni di pioggia, vedremo quello che succederà. Devo dire la verità che in questo momento il college basket sta un po' andando a coprire il buco dell'NBA, perché le preoccupazioni legate al lockout vengono un po' alleviate dall'inizio del college basket, che, devo dire la verità, non potrebbe iniziare in un momento migliore, perché c'è veramente bisogno di sport e di pallacanestro, perché è un momento molto particolare per lo sport americano, anche per via di alcune situazioni che sono capitate, per esempio ieri nel college football, con un allenatore straordinario e famosissimo come tuo paterno che si è finito in mezzo a una storia molto brutta. Però sicuramente è un momento abbastanza importante, perché l'America, i tifosi americani hanno bisogno di vedere giocare a pallacanestro, perché veramente si sono stufati anche di tutte queste, di questo tir molla, di questo ottimismo che poi viene sempre alla fine deluso sul lockout NBA. Sì, frustrazioni su frustrazioni, tu dici, magari si è anche deciso di aprire in maniera così spettacolare e scenografica la stagione NCAA proprio per mandare un messaggio all'NBA, cosa che insomma Obama ha già fatto in prima persona. Ha detto: senti, adesso giochiamo sulla porta aerei e se quelli non si mettono d'accordo facciamo i fuochi d'artificio. Magari è andata così. Grazie Simone Sandri. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro lì a New York. Renzo D'Arieti, faccio appena in tempo a salutarlo perché siamo in chiusura. Buongiorno Renzo. Buonasera. Cosa voleva dire? Senta, no, io voglio parlare del Monte dei Paschi un attimino. Credo che abbia la solita coperta corta, perché un americano mosse che non è assolutamente all'altezza. E il sostituto Omar Thomas, io sono di Rieti, l'ho visto giocare a Rieti Omar Thomas, era un buon giocatore di Lega 2, ma insomma per l'Eurolega sia un'altra cosa. E poi manca un pivot, stanno sempre senza pivot. Quindi la ricetta di Renzo è molto precisa. Assolutamente. Beh, Omar Thomas è migliorato dai tempi di Rieti. Un pochino, sì. E probabilmente avrebbe dovuto, vediamo come andrà, perché c'è anche questo fatto sul piatto, no? Sì. Se arriverà Omar Thomas, perché non verrà squalificato? Questo è un altro punto interrogativo di una stagione Montepaschi con tanti punti interrogativi e francamente non eravamo abituati. No, però non siamo abituati neanche al pienone che vedremo domenica sera al forum per il confronto diretto tra Milano e Siena. Noi di sport andiamo a parlare naturalmente domani pomeriggio dalle 5 alle 6, poi domenica, anche se non c'è campionato, dalle 4 e mezza alle 7 siamo qui, così come saremo qui per Palla a Spicchi dalle 20.30 alle 21. Grazie Luca Chiabotti. Grazie alla a tutti, prossima. Arrivederci. Franco Biantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. A domani, buona serata.